serio che lei insomma si rende conto della situazione. Che cosa vuole? Domani gli avvocati ci fanno dire quello che deve fare, avvocati, e se lo può fare. E dopo ragazzi ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona. Va bene? Va bene? E il fratello con una bella busta. Perché no, così ci guadagniamo. No, come avvocato? No, dico, non c'è niente da guadagnare. No, va bene. Io ho preso, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, un attimo di poter fare, ma a me se tu non sono sicuro, che sono fregato. Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi. Arrivederlo. Grazie di nuovo. L'avvocato Giorgio Ambrosoli è un uomo per bene. È un uomo di poche parole, un professionista, riservato quanto basta. Ambrosoli ricopre un ruolo importante, ma scomodo, il liquidatore della banca privata del finanziere Michele Sindona, un ruolo che lo porterà a toccare i santuari dell'economia illegale. Nel 1971 la Banca d'Italia ordina un'ispezione nelle banche di Michele Sindona. Le conclusioni degli ispettori parlano di gravi irregolarità e carenze amministrative, operazioni bancarie ad alto rischio. Chiedono lo scioglimento degli organi amministrativi. Sindona è però potente, conta appoggi di banchieri internazionali, ha conoscenti e destinatori nel mondo politico. Nel settembre del 1974, l'allora governatore della Banca d'Italia Guido Carli conferisce all'avvocato Giorgio Ambrosoli l'incarico di commissario liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona. Ambrosoli non perde tempo. Nell'ottobre del 1975 entra nel cuore dell'impero di Michele Sindona la società Fasco. Ambrosoli ne scioglie il consiglio di amministrazione e scopre flussi di denaro e transazioni sporche tra le varie società del gruppo. La Fasco è il perno attorno a cui girano gli affari del banchiere siciliano. 1978 sono i giorni in cui Sindona sta per essere incriminato, anche negli Stati Uniti, per il dissesto della Franklin National Bank. Giorgio Ambrosoli si reca a New York per deporre davanti al gran giurì americano. Le minacce di morte sono esplicite, ma l'avvocato Ambrosoli è inflessibile. Il balletto di politici, avvocati e dubbi personaggi vicini a Sindona continuerà fino all'11 luglio 1979. Quel giorno Milano si è svuotata. Le ombre della sera sono avvolte da un caldo umido. Sei amici. Si conoscono dai primi degli anni 70. Le mogli in quegli attimi sono in vacanza con i bambini. Così decidono una rimpatriata come ai vecchi tempi. Vanno a mangiare al ristorante Tre Fratelli. Giorgio Ambrosoli è stanco, turbato, ma quella sera sorride, cordiale, allegro. Alle 10:30 i sei amici hanno finito di cenare. In televisione scorrono già le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon e Alfio Righetti. Fanno pugni per conquistare il titolo europeo dei pesi massimi. La casa più vicina al ristorante è quella di Ambrosoli. Ora sono davanti al piccolo schermo dell'abitazione dell'avvocato, via Morozzo della Rocca numero 1, Milano. Una serata come quella era da tanto tempo che non la trascorreva. Il pugilato distrae, la mente di Giorgio Ambrosoli per un attimo si allontana da quei pensieri che lo assillano ormai da troppo tempo. E allora Zanon e Righetti si stanno picchiando forte. L'incontro finisce in parità e il titolo di campione europeo resta quindi a Zanon. È mezzanotte, squilla il telefono. L'avvocato alza la cornetta. Dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato. Poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta due amici. Torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre, li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa e scende dalla macchina. Signore Ambrosoli? Sì? Mi scusi, signore Ambrosoli. Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Anni dopo si accerterà che l'assassino è William Arico, killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito di Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità e rappresentanza del governo e dello Stato gli rende omaggio. Giorgio Ambrosoli viene fermato perché afferma lo stato delle regole della legalità. Accanto a lui, la moglie e i figli, il finanziere Silvio Novembre, suo fedele collaboratore, fino all'ultimo istante. Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York. Lei ha avuto mai timore per la sua vita? Timore forse sì, insomma, ma così, insomma, non senza lasciarmi influenzare, ecco. Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica? Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma. Lui era colui che impiegava i soldi della mafia, ma era molto, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valuta, insomma. Come avete sentito dalla voce di Silvio Novembre, quella di Giorgio Ambrosoli è dunque una morte annunciata da alcune telefonate che Ambrosoli riceve proprio poco prima di morire. Grazie italiano. Mi ascoltate, l'avvocato Ambrosoli. Un attimo solo, prego. Pronto? Pronto, avvocato. Sì? Mi sono spiegato bene. Sì. Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia e io non riposo. Ha telefonata là, di sopra, no? Sì. Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non voleva collaborare per niente. Mi sono spiegato. Sì, ma scusi, io cosa ci posso fare? Telefono al Presidente del Consiglio, guardi che lei si sbaglia? No, per carità, io questo no, ma insomma ci voglio dimostrare quello che stavano dietro le sue spalle, forse per questo l'ho richiamato, capisci? Ma io vorrei sapere, perché sono estremamente generici i suoi discorsi, Andreotti dice che io non voglio collaborare per cosa? Lui ha telefonato direttamente a quello, di certo io ho fatto telefonare da quel signore là. Ma il dottor Ciampi mi avrebbe telefonato, secondo Andreotti? Esatto. Come farlo indettarselo, Presidente del Consiglio? Ma perché io lo sto dicendo io? Lei chiede in Banca d'Italia se il dottor Ciampi mi ha telefonato. No, io non chiedo a nessuno, voglio che lei insomma si rende conto della situazione. Che cosa vuole? Gli avvocati ci fanno dire quello che deve fare, avvocato, e se lo può fare. Sì. E dopo ragazzi ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona. Sì, ce l'avete ora. Va bene? Va bene? E che bello con una bella busta. No, perché io... così ci guadagniamo. No, io... Come avvocato? No, dico, non c'è niente da guadagnare. Va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, perché io non mi sento, di poter fare del male, se prima sono sicuro. Mi sono fregato. Noi, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Gussi. Arrivederci. Grazie di nuovo. E ora siamo all'epilogo. Giorgio Ambrosoli, un eroe borghese, viene ucciso dalla mafia politica, quella che non fa rumore, quella che non lascia tracce alcuna. Scrive, anni prima, l'avvocato Giorgio Ambrosoli alla moglie Anna. È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Ricordo i giorni a lumi, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per un partito. Ebbene,